Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In questa edizione l'attacco hacker messo in atto da un collettivo filorusso al porto di Trieste, la politica con le novità in vista delle comunali di Pordenone, il raduno degli alpini di Cividale e lo sport. È stato coinvolto anche il porto di Trieste nell'attacco hacker di questa mattina messo in atto dal collettivo filorusso indicato come NoName057, che ha colpito diversi siti italiani, tra cui quelli di banche come Intesa e Monte Paschi di Siena, oltre al porto di Taranto e aziende attive nella produzione di mezzi di trasporto. Immediato l'intervento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha avvisato i soggetti colpiti e li sta supportando nel ripristino delle funzionalità. A seguito dell'attacco, alcuni dei domini risultano tuttora fuori servizio a causa dell'eccessiva richiesta di traffico che impedisce la piena operatività. L'episodio segue quello registrato ieri e annunciato dal collettivo sul proprio profilo Telegram, che ha coinvolto ministeri come quello degli esteri, dei trasporti, dello sviluppo economico, ma anche la Consob, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'aeronautica, la Marina Militare e aziende del trasporto pubblico locale, tra cui quelle di Roma, Genova e Palermo. Quest'anno si vota per rinnovare l'amministrazione comunale di Pordenone. Tra le novità, l'assenza del Movimento 5 Stelle. Di questo e altro ci parla il nostro primo servizio. C'è un nuovo punto fermo per le comunali di Pordenone. Il Movimento 5 Stelle non farà parte della corsa. La decisione è stata presa a maggioranza venerdì sera in un'assemblea provinciale degli iscritti. La presenza della lista di Italia Viva di Matteo Renzi nella coalizione a sostegno del democratico Nicola Conficoni rappresenta un'incompatibilità insormontabile, secondo le indicazioni romane. No anche a un appoggio all'eventuale candidatura di Marco Salvador della Civica per via della contestuale possibile presenza di Azione. Di qui la scelta di non partecipare alle elezioni con un proprio simbolo, lasciando agli elettori di iscritti libertà di voto e di candidatura all'interno di altre liste. Dispiaciuto Conficoni, che dice di aver lavorato bene con la consigliera pentastellata Mara Turani. Nel centrodestra ieri è stata presentata la civica a sostegno del candidato Alessandro Basso, la stessa che aveva sostenuto Alessandro Ciriani, che mantiene nel simbolo il nome dell'ex sindaco, ora europarlamentare. Intanto Basso si prepara al primo evento ufficiale di sostegno, la sua candidatura a venerdì prossimo, un appuntamento marchiato solo Fratelli d'Italia, e solo così potrebbe essere per il momento, perché la sua corsa a nome dell'intera coalizione di centrodestra deve ancora essere approvata dagli altri partiti. La candidatura di Basso deve passare per il tavolo politico regionale, chiarisce Marco Dreosto, segretario regionale della Lega, ma al momento una data per questo tavolo politico non c'è. Fratelli d'Italia vorrebbe fosse fatto in settimana. Auspichiamo l'unità del centrodestra, afferma il segretario provinciale della Lega, Andrea Delle Vedove, ma siamo pronti anche allo scenario di mancato accordo e un nostro nome come candidato sindaco per Pordenone lo avremmo, aggiunge l'esponente leghista. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 6,5 gradi, con vento di bora a 30 km orari. Gorizia e Udine 5,5, Pordenone 4. Forni di sopra 1 grado, Tolmezzo e Piancavallo 0. Tarvisio meno 3, Sappada meno 9, Monte Zoncolan meno 3,5, Monte Lussari meno 7, grado 5, Lignano 4. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Per oggi pomeriggio cielo sereno, sulla costa soffierà bora moderata o vento moderato da nord-est. In quota sulla zona montana soffierà vento sostenuto da nord o nord-est. Per domani cielo in genere sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata sostenuta, forte a Trieste. In quota sulla zona montana soffierà vento da sostenuto a forte da nord-est. Gelate notturne in pianure nei fondivalle con marcate inversioni termiche. Oggi a Cividale, come ogni inizio gennaio, la sfilata degli alpini e del battaglione Cividale, che sulla carta non esiste più dal 1995. Sentiamo il generale Gianfranco Peraldo, presidente dell'associazione Fuarce Cividat, che raccoglie i reduci. Generale Peraldo, a 30 anni dalla soppressione, cosa significa il battaglione Cividale? Il battaglione Cividale per tanti di noi significa ancora ricordare un momento molto importante della nostra vita militare, ricordare i caduti di quel battaglione, ricordare gli sforzi e i sacrifici dei suoi componenti e portare avanti un disegno di fratellanza e di amicizia che si è creato all'epoca del servizio e che mai nessuno riuscirà a sopprimere. Nella storia è stato un battaglione importante, ha combattuto nella battaglia di Russia sul Don. Esattamente, nei primi giorni del 1943 il battaglione Cividale è stato impegnato per la tenuta di una quota che era una piccola collina, 176,2 metri sul livello del mare, però che era un asse importante di rifornimenti sotto la collina. Passava un asse importante di rifornimenti per tutto il settore. Ecco, gli alpini del Cividale hanno combattuto 3 giorni per mantenere la loro quota, e dal 3 al 6 gennaio. Il 6 gennaio si sono definitivamente stabiliti su quella quota segnale che poi il comando del reparto tedesco, il comando della brigata tedesca che gestiva il settore, ha ribattezzato come quota Cividale. E fino al 16 gennaio l'hanno tenuta gli alpini del Cividale, finché è stato dato l'ordine di ripiegare. Cividale del Friuli, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è spento ieri nella sua Spilimbergo Nane Zavagno, aveva 92 anni, artista poliedrico. Nella sua lunga carriera si è confrontato, oltre che con il disegno e con la pittura, con diversi materiali, dalle tessere per mosaico, l'alluminio delle sue sculture e i sassi del fiume Tagliamento, con i quali aveva creato i suoi noti rosoni bianchi. Dopo aver insegnato alla scuola mosaicisti di Spilimbergo, nella quale si era formato, Zavagno insegnò arti plastiche a Udine, espose nel 1959 alla Biennale di Padova, 2 volte negli anni 70 e 80 al Gran Palais di Parigi, nel 1995 e nel 2011 all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia e al Museo d'Arte Italiana in Perù. Partecipò a diverse mostre collettive e personali sia in Italia sia all'estero. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Enrico Crispolti, Elio Bartolini e Vittorio Sgarbi. Il feretro di Zavagno sarà esposto mercoledì 15 gennaio dalle 11 alle 14 nella sede della sua mostra permanente a Spilimbergo. Lo sport, pallavolo femminile in Serie A1, la CDA è stata sconfitta da Pesaro ma ha conquistato un punto. Prima notizia della serata, la cessione della centrale russa Yana Sherban. Troppo ghiotta l'offerta arrivata dall'Indonesia. E allora, contro Pesaro, la CDA Talmassons trova nuove energie schierando 2 giovani centrali, Nicole Piomboni prima e Alice Pamio poi. Nulla da perdere per le friulane reduci da 5 sconfitte consecutive e spronate dalla tirata d'orecchie della dirigenza, tanto da partire in quarta, ma il parziale di 6-1 è un'illusione. Il primo set alla fine è una maratona che le friulane vincono per 32-30 al 7° set point. Nel secondo parziale grande equilibrio fino all'allungo delle marchigiane sul 15-11, la CDA tenta un recupero ma errori in battuta e piazzamenti a muro non perfetti fanno proseguire Pesaro verso la rimonta nel conteggio set chiudendo 25-19. Buon inizio del terzo set per le friulane, sempre sopra Pesaro fino al 13° punto, poi un momento di blackout che porta Vallefoglia al sorpasso e la CDA in un buco nero, parziale di Pesaro di 12-0 che resta negli annali della A1 e la cavalcata verso la vittoria del set per le avversarie è inevitabile, si chiude 25-17. La reazione della CDA nel quarto set fino al +8 sul 20-12 che costringe Pesaro a un doppio cambio, ma il grosso è fatto e Talmassons chiude 25-19 conquistando la certezza del punto in classifica. Al tie break per la vittoria, Talmassons sempre all'inseguimento, si va al cambio campo sul +3 per le marchigiane e il vantaggio non viene più recuperato, punteggio finale 15-11. In classifica la CDA sul fondo aggancia temporaneamente Roma, il capitano Martina Ferrara e coach Barbieri suonano la carica tra campo e mercato. Un punto alla volta, 2, 3 meglio ancora, però dobbiamo darci dentro, mancano 9 partite, dobbiamo spingere. Sicuramente andremo sul mercato, questo è inevitabile, però intanto oggi godiamoci le nostre giovani, si parla tanto di giovani italiane, in questo momento godiamoci loro. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la pallavolo di Serie A2 maschile, la sconfitta per 3-1 della Tinet Prata nello scontro diretto fuori casa per il primato in classifica contro Consar Ravenna. I friulani sono ora terzi in classifica, 36 punti a pari merito con il Brescia che affronteranno in casa domenica prossima alle 17:30. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.